solo nuvolette, perché uno degli aspetti importanti è il fumetto. Però, come vedremo, c'è tutta una serie di legami tra il fumetto, la cultura pop, anche la musica rock oggi, come vedremo, quando citeremo un certo personaggio che si chiama Michael Moorcock, che poi tireremo fuori anche in ambito musicale. E grazie alla Biblioteca Archimede che mi dà la possibilità di fare questa trasmissione, grazie a Cosimo Mendolia, grazie a Filippo in regia che ci darà una mano dietro la console. E io continuo a chiamarla console perché sono fermo all'8-bit, per me è ancora Nintendo, sono vagamente diversamente giovane, sono in quella soglia. Adesso a questo punto dovrò dire anche la data di nascita, perché continuo a fare questa battuta stupidissima del diversamente giovane, niente. E chi vuole partecipare in diretta, 345 84 3228 se volete mandarci un SMS. Fabrizio Borgio io l'ho conosciuto da lettore ed è sempre un piacere scoprire prima delle penne interessanti e poi scoprire anche di avere un territorio in comune e quindi una certa poetica di base, amici e influenze in comune. Fabrizio ha all'attivo 4 o sono già 5? 5 romanzi. Quindi se a volte si può esitare nel dare l'etichetta di scrittore a qualcuno che ha un solo romanzo attivo e magari poi al rischio della seconda opera, Fabrizio già con 5 direi che sei quantomeno nella categoria degli scrittori prolifici, quantomeno direi che il blocco dello scrittore non ti riguarda. Attualmente no. Mi piace pensare di essere nella categoria, o se non altro ci lavoro per diventarlo, cioè okay. L'appropriarsi del termine di scrittore è una cosa che faccio sempre con le pinze. Esatto, ma per questione di timore, di eccessi, di soggezione nei tuoi confronti? Ma io lo chiamo un discorso obiettivo. Io penso sempre che fondamentalmente chi scrive è animato da una presunzione piuttosto forte. Okay. Chi la mostra di più, chi la mostra di meno, però esiste, perché comunque non è forse una forma di presunzione il ritenere che tutto quello che hai da dire interessi gli altri. Certo. Nel mio caso sembra che stia succedendo e ci lavoro perché succede sempre di più. Poi lo scrittore è il demiurgo, nel senso crea un mondo, lo porta fa muovere, crea dei personaggi, li porta in scena. Quella è la grande magia della narrativa, e non solo della narrativa, ma comunque è uno degli aspetti da raccontare. Certo. Visto che ci ricolleghiamo a un discorso multidisciplinare che va dal fumetto, va dal romanzo, va dal racconto, va dalla musica. E alla fine si tratta di un unico immaginario, nel senso, soprattutto oggi, in cui tutti i prodotti narrativi nascono già con quantomeno un'opzione sugli altri linguaggi di narrazione. Ogni nuovo libro di Stephen King ha già l'opzione, e questo in termini puramente commerciali, ha già l'opzione per diventare film. E adesso poi con l'affermarsi delle serie TV, allora anche serie TV, e poi può capitare, questo lo raccontava Stephen King, lo raccontava anche in On Writing, che lui stesso fa l'audiolibro ed è un altro linguaggio anche quello, molto più vicino alla narrativa. Però è tutto un calderone alla fine, in senso positivo, nel senso perché i vari linguaggi si influenzano, si ibridano. Ed è per questo che forse tu come scrittore fai un po' fatica a trovarti all'interno dell'etichetta noir o... Ma sai, il discorso è che il noir è un genere che in Italia non è molto ben chiaro. Ok. Cominciamo col dire le cose come stanno, perché c'è molta confusione su questo. Tendenzialmente qualunque storia che veda di mezzo un pizzico di indagine o un cadavere viene automaticamente etichettata come noir, o al limite come giallo noir, che già diventa un po' ancora più complicato, ancora più complicato da definire. Mentre invece, se vogliamo andare un attimino a fare i maestrini, ci rendiamo conto che sono due generi innanzitutto molto ben differenti e ben codificati. Questo è un assunto dal quale io parto sempre quando parlo di quello che scrivo. La mia è sicuramente una forma di narrativa estremamente ibrida, un po' perché il noir, secondo una definizione che avevo letto diverso tempo fa su un manuale di giallistica, innanzitutto uno stato dell'anima, oltre che una semplice evocazione di atmosfere. Okay. E su questo io condivido pienamente, cioè può esserci una storia noir all'interno di una storia d'amore, ad esempio, o all'interno di una semplicissima vicenda d'avventure, e tutto quello che emerge dall'ombra di quello che si racconta che fa noir, quindi non è un non è una cosa così scontata a mio vedere, certo. Mentre invece il giallo ad esempio è un tipo di letteratura molto più illuminista, nel senso che la struttura classica di un giallo prevede sempre un reato, l'indagine per scoprire il colpevole e la vittoria della giustizia sul delinquere, fondamentalmente. Okay. I migliori gialli, dopo tutto anche poi Agatha Christie, la matriarca del genere, sono meccanismi, genere. Giusto? Certo. Sono ingranaggi perfetti. Sono delle macchine a orologeria con i loro ingranaggi che si devono incastrare perfettamente un con l'altro, e non si può uscire da quel sistema lì. Cioè, mentre invece il noir è molto più eretico da questo punto di vista. Cioè, se andiamo a vedere il noir storico, quello ad esempio a Chandler, tanto per certo. citare un maestro del genere, ci rendiamo conto che innanzitutto ha una caratteristica che sfruttano in molti, non con la stessa bravura, ma c'è la narrazione in prima persona. E questo ti crea una soggettività. Cioè, tu non esci dai binari di quello che vive il protagonista, perché tu sei il protagonista. Vivi, vedi e senti attraverso i suoi occhi, attraverso la sua narrazione. Questo non ti dà scampo da quello che può succedere. Non ti puoi estraniare dal personaggio, perché sei tu in quel okay, momento. Ok, quindi togli un filtro. Togli un filtro, che è molto importante. Ok. E però, tanto per cominciare a spaziare, perché abbiamo parlato tanto di fantascienza, per esempio, 2 settimane fa. Certo. Un elemento del noir, la voce fuori campo, è un elemento molto utilizzato in un film che si intitola Blade Runner, che è uno dei capisaldi della fantascienza. Certamente, è un caposaldo della fantascienza, ma è stato pesantemente ibridato dal noir. Normalmente io avevo letto prima il libro e poi ho visto il film, quindi ho avuto modo di valutare delle differenze enormi fra le due forme certo. di espressione. Poi soprattutto in quel caso lì c'erano due autorialità forti, Dick, assolutamente. Dick in principio e Ridley Scott. E Scott. E infatti Scott era stato affascinato dalla tematica della doppia realtà, che è tipica della narrazione di Dick, però non riusciva a sopportarne la visione cruda e pessimistica del mondo che lui era in grado di regalare nel romanzo. Tant'è vero che Blade Runner, a differenza di Cacciatore d'Androidi, se vogliamo sì. citare il primo titolo italiano, è straordinariamente più poetico ed è molto più romantico, ed è proprio quest'aura di romanticismo nasce dall'ispirazione al noir anni 40. Okay. Così abbiamo la voce fuori campo, la narrazione in prima persona, le atmosfere vintage, no? che hanno costruito il mondo, che poi ha avuto un impatto sull'immaginario collettivo fra tutti certo. gli anni 80, pazzesco. Esatto. Fate una piccola digressione filosofica, se vogliamo. Il replicante Roy Batty nel romanzo era scritto con due T, Batty con due T. Okay. Scott l'ha trasformato in Roy Batty con una T sola, che sembra quasi il diminutivo di Bat, pipistrello. Questo per fare un altro discorso sulla trasformazione anche semantica dei personaggi. Sì, sì, sì, sì. Per chi non lo sapesse, il personaggio di Roy Batty era interpretato da Rutger Hauer. Ho avuto anche l'occasione di intervistarlo circa 3 mesi fa. Personaggio molto imponente, anche l'attore. Per raccontare un aneddoto anch'io, poi dobbiamo passare al primo break, alla canzone. Quando ho chiesto a Rutger Hauer, ma era più divertente interpretare i buoni o i cattivi, lui si è infervorato e mi ha detto no, perché io interpreto persone, non personaggi. Mi ha fatto tutto un discorso di un certo tipo, che sì, certo, c'è un discorso autoriale, ma ricordiamoci che Rutger Hauer è un'icona del cinema di genere, come eroe in Lady Hawk, come villain amletico in Blade Runner, e quindi per noi la maschera del personaggio, per tutti noi, è andato anche oltre all'attore. E prima facciamo il primo break con la prima canzone. Ho fatto una playlist con sfumature dark che dovrebbe piacerti, Fabrizio. Ascoltiamo. Partiamo dagli Steppenwolf, un pezzo d'epoca con un gran ritmo che si intitola Magic Carpet Ride. Ed eravamo dalla parte del classic rock, gli Steppenwolf, e stavamo parlando anche di cinema di genere, di classici del cinema, invece Blade Runner. È stato annunciato che ci sarà un Blade Runner 2 e Harrison Ford ha firmato per interpretare di nuovo Rick Deckard. Non so se sia una buona notizia oppure no, però vedremo. Nel senso, Harrison Ford è tornato a interpretare i panni di Indiana Jones, tornerà a interpretare quelli di Han Solo. C'è un po' un eterno ritorno dell'uguale, non so se sia buono oppure no, nel senso stiamo un po' rivivendo quell'epoca classica della narrazione. Ha qualcosa di inquietante dal mio punto di vista, questo eterno guardarsi indietro e ridigerire e rimasticare tutto quello che in realtà è già stato fatto. Sì. È un po' antitetico al concetto di narrativa fantastica, di cinema fantastico. Esatto, esatto, che di per sé credo che quello che ha avvicinato me come lettore e spettatore, ma credo che sia quello che ha avvicinato anche te, è il fatto che si tratta quasi sempre di idee o visioni del mondo un po' fuori dagli schemi. Esatto. E quello che credo, parlando da adolescente che si è formato ed è diventato lettore grazie alla fantascienza, io lo dirò sempre, non scrivo fantascienza ma nei confronti della fantascienza dei debiti enormi, è quella che mi ha permesso di sognare. Infatti sei qui anche per parlare di fantascienza, nel senso scopriamo un'altra anticipazione, nel senso poi in realtà horror, noir, fantascienza, fantasy sono mondi contigui. Nel senso. Sì, ma rientrano tutti nel grande calderone della letteratura fantastica, possono essere le mille sfaccettature della stessa gemma dal mio punto di vista. Infatti il tuo primo romanzo, mi dicevi, fuori dalla linea, è tecnicamente un horror. Esatto. Vuoi parlarci di questo romanzo, di come è nato? Questa è stata la prima pubblicazione che ho fatto, anche con un'editrice che cominciasse ad avere un mercato piuttosto esteso, voglio certo. dire. La Frill Editori è considerata la più grande tra le piccole, volendo fare un gioco di parole, sono specializzati in giallo noir. Io avevo questo classico romanzo nel cassetto, che poi proprio nel cassetto non c'era perché aveva vinto un concorso già qualche anno prima. Quindi si era già fatto notare. Si era già fatto notare e quindi sono stato poi avvicinato dall'editore perché era interessato alla cosa. In realtà poi ha subito dei rimaneggiamenti, è stato riscritto fondamentalmente e quindi questo ha portato anche a un cambio del titolo che credo che gli abbia fatto bene. Comunque è uscito come Masche. Ok. Masche, quindi andiamo su qualcosa che appartiene fortemente al nostro folklore, al nostro territorio. Esatto. È un romanzo, da questo punto, se vogliamo fare un altro crossover fra le varie discipline, è un romanzo avatiano, nel senso che si richiama molto al gotico rurale che Pupi Avati aveva inaugurato con La casa dalle finestre che ridono. Certo. Lo cito sempre fra i miei ispiratori per l'atmosfera di questo libro. Quindi sei andato a cercare un po' di ricostruire un horror ma con luoghi nostri, nel senso Stephen King, che abbiamo già citato, è un grande cantore dello spirito del luogo, ma lui racconta il Maine, il New England, un mondo degli Stati Uniti di provincia che noi non conosciamo. È chiaro che per raccontare dell'horror nostrano bisogna trovare dei nostri luoghi. Esatto, esatto. Quali sono i tuoi luoghi? I miei luoghi sono quelli dove io sono nato e cresciuto, quindi parliamo del Basso Astigiano, quel territorio compreso fra Langa e Monferrato, dove i due territori sfumano uno nell'altro. Questa è casa mia, questo racconto. Cioè parliamo comunque di terre dove il folklore è ancora piuttosto radicato, a dispetto di tutto. E quindi la figura parte di me. Cioè, e quindi la figura della masca di per sé è il simbolo, forse sei stato anche uno dei primi a voler fare questo discorso di rinnovamento di una tradizione antica. Certo, una rivisitazione sfruttando la narrativa horror e quindi dargli, come dire, una patina di modernità del quale prima era completamente scevra. Certo. Sul discorso della relazione fra horror e folklore ci sarebbe da aprire un saggio, perché se noi andiamo a vedere la maggior parte delle figure iconiche dell'horror in realtà sono figure folkloristiche, cioè il vampiro è tipico del folklore di innumerevoli culture, adesso senza andare a vedere quello classico, quindi si parla di Romania, Transilvania, Carpazi. Però si sa che fin dall'Antico Egitto le figure ematofaghe erano sempre presenti nei racconti, nelle favole varie. E nasce da paure ancestrali di un predatore al di sopra della razza umana stessa, nel senso per biologia noi siamo alla cima della catena alimentare. Certo, è inquietante e fortemente paurosa l'idea che non sei più il primo della scala. Esatto, esatto. E a quel punto lì poi l'ascendenza dal punto di vista del terrore assoluto, dell'inconoscibile, è sicuramente Howard Philip Lovecraft, direi. Lovecraft è stato forse il più grande modernizzatore di questo discorso, anche perché poi diversi studi anche piuttosto approfonditi sulla sua cosmogonia, si scopre che a sua volta era stata ispirata da lontana da miti ancestrali ben radicati nella storia dell'uomo. Si parla del Pantheon assiro-babilonese, e lui effettivamente, al di là delle descrizioni contrastanti che si hanno del suo carattere, della sua visione del mondo, perché andrebbe anche contestualizzata nell'epoca. Sicuramente un personaggio discusso. E sicuramente discusso e controverso per molte prese di posizioni che oggi come oggi sarebbero politicamente inaccettabili. E va calato però, nella sua epoca, come tutti. Ripeto, va sempre contestualizzato nella sua epoca. D'altronde, io mi ricordo quando avevo letto John Carter di Marte, quando il protagonista si affrontava gli uomini neri di Marte, quando diceva sebbene siano neri avevano dei tratti di cesellata bellezza. Mi ricordo questa frase. Esatto. E con Edgar Rice Burroughs andiamo, sono più o meno contemporanei, adesso non so gli anni precisi, Burroughs e Lovecraft, forse Burroughs è ancora antecedente. No, sì, vero, sì, fra lui, Howard, erano bene o male quello che mi piace pensare, un cartello di scrittori che bene o male avevano delle relazioni fra loro. Erano amici di penna, certo. Tanto per dare una pillola di conoscenza a chi per caso si fosse perso tra questi nomi, Lovecraft è il più importante scrittore horror di tutti per il suo senso di terrore assoluto e per aver creato i miti di Cthulhu, il richiamo di Cthulhu, Nyarlath, tutte queste divinità antichissime che attaccano e assalgono l'umanità e lasciano... È un orrore per cui non c'è difesa, nel senso... No, è vero. Questo era il fatto che demolisse un pochettino l'immagine illuministica che si aveva della situazione. Cioè, la stessa provenienza dei grandi antichi era fortemente innovativa per l'epoca. Non erano semplici demoni che venivano dall'aldilà o da un inferno, venivano da altre dimensioni, quindi introduceva perfino il concetto di universo multidimensionale. Infatti, alla fine, tornando a quel discorso della divisione, della suddivisione dei generi, alla fine l'horror vero è quando non esistono gli strumenti per affrontare questo orrore, questo nemico, perché poi al momento in cui tu dai al personaggio gli strumenti per combattere queste creature infernali o extradimensionali eccetera, diventa un fantasy o diventa un fantastico. Esatto. Diciamo che, se vogliamo essere un pochettino didascalici, tendenzialmente la linea di demarcazione fra l'horror puro e tutta quella serie di declinazioni del genere, no, che poi si è arrivati a ibridare fino a... Mi viene in mente Seven, che secondo me è un esempio perfetto di ibridazione, perché è un film che fondamentalmente è un thriller molto cupo, però riesce a evocare delle atmosfere orrifiche molto forti, pur non essendo in presenza di elementi soprannaturali. Esatto. Perché tendenzialmente la linea di demarcazione principale è il soprannaturale, cioè qualcosa che va al di là della logica, al di là del razionale, al di là dello spiegabile, e che non implichi la scienza, tendenzialmente rientra o nel fantasy o nell'horror. Come lo stesso Hannibal Lecter del Silenzio degli Innocenti, un'altra icona, esatto, oramai icona pop, e anche qui c'è, dal romanzo di Thomas Harris ai vari film, poi adesso c'è anche la serie televisiva sempre sullo stesso personaggio, non c'è niente di soprannaturale, nel senso il dottor Hannibal Lecter potrebbe esistere. Anzi, Harris nella sua intervista, quando gli hanno chiesto come aveva costruito la figura di Hannibal Lecter, lui ha detto: ma lui è un patchwork, è praticamente un collage dei maggiori serial killer che ho avuto modo di studiare tramite dei trattati di criminologia, quindi è quasi una summa, certo, di serial killer. E infatti è diventato l'icona del serial killer, nel senso, il serial killer anche cinematograficamente. Sì, in tempi moderni sì, è lui. Esatto. E parlando di serial killer, parlando di horror, in una notte buia e tempestosa c'è una giovane coppia in un certo film che si trova nei pressi di un castello in cui incontrerà il dottor Frankenfurter. È un pezzo celebre, quello che stiamo per mettere, che si intitola Time Warp. Fa più o meno così, come nella canzone che stiamo per trasmettere. Bentornati sulle frequenze digitali di Radio Archimede, bentornati con noi a Sono Solo Nuvolette. Parlavamo di cultura pop, eravamo arrivati all'horror, eravamo arrivati al cinema. In realtà stiamo saltando allegramente da un punto all'altro, perché in realtà ci sono un sacco di collegamenti tra le righe. Perché il Rocky Horror Picture Show ha anche degli elementi di fantascienza, di demistificazione di tutto un immaginario precedente, un po' più... codificato, diciamo, l'horror della Universal o poi quello di Roger Corman e così via. In realtà sto praticamente ripetendo biecamente quello che Fabrizio diceva nella pausa, quindi mi sto prendendo dei meriti che non sono giusti. Fabrizio, in realtà mi riaggancio a te per chiederti come abbiamo fatto ad arrivare dal Rocky Horror Picture Show a Doctor Who. Beh, il grande unificatore è la fantascienza. Esatto. La fantascienza, perché obiettivamente se si va a vedere la trama del Rocky Horror Picture Show, questa famiglia di mostri, vampiri, sono alieni, vengono da un altro pianeta, quindi sono altro, no? Esatto. Il concetto dell'alieno, che secondo me ha forgiato fortemente certa cultura, soprattutto nei 70, negli anni 70, basta pensare all'Uomo che cade sulla Terra di Walter Tevis, che era un romanzo splendido, che è stato poi portato sullo schermo da Nicholas Roeg, interpretato da dal più alieno dei cantanti rock, David Bowie. Infatti, e quindi vedi che abbiamo anche uno dei più potenti media di quell'epoca, che era la musica rock, che ha sempre avuto dei debiti giganteschi con la fantascienza. C'è sempre stato un flirt neanche troppo nascosto fra di loro, Space Oddity, tanto per dirne una. Tanti altro altri. Pezzo tornato in auge grazie a Interstellar. Grazie a Interstellar, certo, che anche quello, se vogliamo, è un tentativo semi riuscito di voler riportare la fantascienza a delle ambizioni più adulte, in un certo senso. Sì. No? Tentativo semi riuscito, a mio parere, ma non da cassare completamente. Ma lì forse no. Il problema è che guarda a Kubrick, guarda 2001, e chiunque quando si mette in qualche modo in competizione con Kubrick non può non cadere. Perché... No, è un paragone troppo scomodo, troppo pesante. Esatto. Quello senza dubbio. Però Christopher Nolan è un personaggio interessante cinematograficamente come autore, perché prima di dirigere Interstellar ha diretto la trilogia di Batman. Certo, e qui abbiamo un altro crossover. Esatto, altra icona pop. Altra icona pop per eccellenza, quindi andiamo sul versante fumettistico e supereroistico. Meno male che io mi preoccupavo, ho uno scrittore noir ospite, non potremo parlare delle solite cose, sono solo nuvolette. Il maelstrom culturale è questo. No, su quello non si scappa, certamente, direi. Anzi, credo che la rilettura supereroistica che è iniziata, direi, a cavallo degli anni 90, quindi grazie a autori come Millar, come Sienkiewicz ad esempio, avevano portato il fumetto supereroistico, e non solo supereroistico, comunque fumetto di genere, all'attenzione anche della soglia critica. Quello forse è stata una delle più grosse vittorie di chi si occupa all'interno del genere prima del declino, certo. del nuovo millennio, perché effettivamente poi dovremmo caderci, però io credo che ci sia un forte declino del genere fantastico oggi come oggi. Secondo me, banalmente, quando hai è un po' come Christopher Nolan, che se va a giocare contro Kubrick perde, ma solo perché si è andato a confrontare con Kubrick, non perché Christopher Nolan penso che abbia parecchie cartucce da sparare, forse ancora ne avrà. Però il problema è quando ti metti in competizione con un certo tipo di maestri. Veniamo da, e questo il maelstrom culturale anche per questo, veniamo da una stagione dagli anni 70 in avanti in cui si è creato un immaginario e ci sono stati grandi autori al lavoro. In realtà, se parliamo di letteratura, andiamo ancora più indietro, perché prima parlavamo di Lovecraft, di Howard, e stiamo parlando dell'inizio fine 800, inizio del 900. E però, e qui un'altra pillola di curiosità, abbiamo citato Lovecraft, abbiamo citato Edgar Rice Burroughs per John Carter da Marte, ma Edgar Rice Burroughs è anche l'inventore di Tarzan, che è un'altra icona, certo, quasi proverbiale, nel senso chiunque sa chi è Tarzan, come chiunque sa chi è Rambo, come chiunque sa chi è Terminator. Sì. E poi Howard invece è creatore di un altro personaggio proverbiale, che è Conan. Quello, Conan è diventata l'icona per eccellenza della heroic fantasy, fondamentalmente. Dopo Conan ci sono sempre solo stati epigoni, voglio dire, se togliamo tipo il genio di Fritz Lieber, che aveva creato il ciclo di Fard, The Grey Mouse, dove effettivamente lui un pochettino sbeffeggiava, no? La presenza, la virilità maschia e selvaggia di Conan. I racconti di Howard ancora oggi sono molto leggibili, perché tutto sommato sono molto semplici. Cioè, Conan è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. Tu lo cali nell'avventura e lui agisce. E tra l'altro poi il Conan letterario è molto meno bovino, se si può usare una parola un po' banalotta, dello Schwarzenegger cinematografico, che all'epoca era un po'... quantomeno un po' fisso come recitazione, se vogliamo scherzarci un po' su. No, è vero. C'è da dire che Howard aveva una prosa veramente molto potente. Questo bisogna rendergliene atto, ed è difficilmente replicabile, a meno che non ne diventi una scimmiottatura dal mio punto di vista. Esatto. Ed è una caratteristica, secondo me, che è comune a tantissimi grandi autori americani di quel periodo, che rientravano nella cosiddetta sfera del pulp, no? Voglio dire, Chandler stesso, che oggi come oggi è celebrato anche dalla critica più spocchiosa, l'ho recuperato di recente, devo dire che effettivamente aveva uno stile di una pulizia, di un'essenzialità che è veramente invidiabile. Una forza adesso. Espressiva nelle scelte delle parole. Certamente, era cristallino, non aggiungeva mai una parola di troppo, riusciva a essere fortemente evocativo con due aggettivi, quindi era veramente, veramente un grande narratore da questo punto di vista. Esatto. Le Pulp Magazine, dovendo collocarle, erano le riviste da pochi soldi. Pulp era il tipo di carta più povero. Carta di polpa. Esatto. Letteralmente. E sulle Pulp Magazine sono cresciuti gli scrittori di noir, gli scrittori certo. fantastici, gli scrittori horror. E praticamente tutti i grandi registi del fantastico, quelli che hanno contraddistinto quella che io chiamo la stagione d'oro, diciamo il decennio 1970-1980, comunque sono ragazzi che hanno sognato su quelle pagine lì, si va da Spielberg, a Lucas, Carpenter, esatto. Tutti loro. E qui continuiamo un po' a girare su quella stagione che è stata eccezionale, perciò oggi è più difficile. Uno si confronta con degli autori di un tal livello, di una tale attualità. Hai citato Carpenter, Essi vivono, che è la storia di in una bidonville alla periferia di, credo che fosse Los Angeles, se non mi ricordo male, era Los Angeles. In piena crisi economica, tra l'altro, sì. Un'altra crisi economica, 30 anni fa. E un gruppo di persone trovano questi occhiali, grazie a cui si accorgono che non tutti sono esseri umani, qualcuno sotto la maschera umana è in realtà un alieno. Essi vivono innanzitutto tratto da un racconto, ricordiamolo, un racconto molto breve, però adesso non mi ricordo più l'autore, faccio una figurazione in diretta, pace. Erano poche pagine di veramente grandissima resa, okay. Resa. Carpenter ne ha tirato fuori una sceneggiatura molto lineare, se vogliamo, cioè è un film che si guarda senza troppe pippe mentali, se vogliamo vedere, un action fondamentalmente. Il protagonista è un wrestler, Roddy Piper. Esatto. Quindi era una figura. No, ma è molto divertente parlare di Carpenter in termini intellettuali, parlare di questo cinema, perché in realtà era cinema commerciale, sì. Con una sua anche un suo cotè truzzo, se mi passi la parola, nel sì, senso. Soprattutto molte produzioni. Cioè, è molto commerciale. Certo. Sopra le righe, non necessariamente, e però all'interno del cinema di Carpenter troviamo ancora tanta simbologia che tantissima, è molto attuale. Tantissima, tanti omaggi, soprattutto Essi vivono, credo che introduca il concetto dell'apparenza, no? E quindi della relatività della realtà, che è un concetto molto complesso, esatto. E sul quale ci si può divagare per ore, sulla percezione di quello che noi vediamo, e non è detto che sia, arriviamo a livelli della fisica quantistica a questo punto, no? Esatto. E non è niente male per qualcosa che è di intrattenimento puro, commerciale, popolare, nazionale popolare, chiamiamolo come vogliamo, però quello che hanno saputo dire quelle storie sì, sfido tanti trattati di filosofia. Spezzerei una lancia, nel senso che comunque bisogna tenere presente che, a parte due o tre grossi titoli, Carpenter ha sempre lavorato in totale autonomia, quindi da questo punto di vista comunque è sempre stato un autore molto coerente con la sua visione del mondo e del cinema stesso. Se togliamo La Cosa, ad esempio, che forse è uno dei più bei remake che sono stati fatti assieme alla Mosca di Cronenberg, e qui ritorniamo poi sul discorso del rimasticare completamente. Esatto, infatti il rimasticare non è necessariamente negativo, purché no, ci sia un autore che sia proprio dell'opera originale. L'importante è che digerisci bene quello che mastichi. Esatto. Se vogliamo continuare la metafora digestiva, sì, no? andremo verso lo splatter d'ora in avanti, però. Eh beh, il cinema del corpo di Cronenberg, esatto, ad esempio, è totalmente basato su questo, ma ne ha fatto una visione filosofica molto potente, ha fatto scrivere fiumi di inchiostro sulla saggistica, anche quella più blasonata, questo bisogna, esatto, rendergliene atto, come anche Lynch. Esatto. E quindi qui andiamo su un territorio molto più noir, ma non solo noir, sì, dire. Quando parlo del romanzo mio che hai letto, quindi La morte mormora, io lo definisco sempre molto linciano, perché comunque uno dei suoi numi tutelari è sicuramente Twin Peaks. Hai detto niente. Beh, invece io ti cito un altro scrittore che si chiama Michael Moorcock, che abbiamo detto che ci saremmo arrivati invece divagando, salpando lungo i mari del fantastico, ce lo siamo un po' persi. Mike Moorcock è uno scrittore contemporaneo, nel senso che è ancora vivo, sta un, sì, po' a Londra, un po' a Parigi, e ha inventato vari personaggi, tra cui parlavamo di Conan, l'anti-Conan, sì, che è Eldrick di Mendibonè, che è un albino filosofo, sì, con la spada nera che uccide i nemici ma succhia le anime dei nemici, quindi tutto un certo dark fantasy nasce da lì. Michael Moorcock ha anche scritto i testi per un gruppo che si chiamavano Blue Easter Cult, e di cui adesso andiamo a sentire un brano che si intitola Veteran of the Psychic War, e anche qua torniamo nei reami del fumetto, perché in realtà era la colonna sonora del film Heavy Metal. Se qualcuno volesse ancora mandarci un SMS, il numero per la diretta è 345-84-30-228. Sono solo nuvolette, sta crescendo come un orribile blob. Infatti pian piano sta nascendo, grazie al mio social network manager, social media manager, Di Pedro, sta nascendo la pagina Facebook, quindi se siete in ascolto e volete battere un colpo, fate un giro su Facebook, cliccate mi piace, dite che vi piace. E poi avrò un account Twitter presto, nel senso che c'è, ma devo ancora impratichirmi perché sono un giovane vecchio, ho qualche problema a rapportarmi. Mi rapporto bene con le nuove tecnologie che ho capito subito, le altre poi non mi entrano in testa. Come Fabrizio, tu hai un account Twitter invece, sei più Io... social di me. Sì, sì, sono su Twitter dal 2009, a mio nome semplicemente, e l'ho fatto perché ho reputato Twitter una piazza meno isterica di Facebook. Diciamo che i due social, per quanto sono fondamentalmente fra i due big attualmente presenti in rete, credo che abbiano comunque due filosofie diverse nell'approccio, sì, per quanto negli ultimi tempi ho visto che c'è una contaminazione fra i due ambienti molto molto stretta. Questo non toglie che io nei confronti di Facebook abbia dei debiti notevoli, quindi il mio caso Facebook naturalmente non lo chiuderò mai. Okay. Sono facilmente raggiungibile a nome di Fabrizio Borgio. Tu sei uno scrittore che ha pubblicato 5 libri cartacei, ci sono versioni digitali? Ci sono, di 4 di essi esistono anche le versioni ebook, okay, delle quali io sono molto contento, perché l'eterna diatriba fra elettronica e cartaceo a me interessa poco e francamente la trovo anche un pochettino stucchevole. Se vogliamo aprire una piccola polemica, io sono dell'idea che il feticismo della carta sia tipico di chi non legge. Io credo questo che è interessante. Indipendentemente dal formato, il fondamento sia quello di poter leggere. Io, fra uno che non legge, magari annusi libri, e un ragazzo che legge, ma legge soltanto in formato elettronico, l'importante è leggere. Quindi leggi pure in elettronico, l'importante è che leggi. Mi sembra un ottimo punto di vista. Invece abbiamo parlato di horror e abbiamo parlato di luoghi dell'horror, come Stephen King con il suo Maine, e anche tu, scrivendo dell'horror che poi è diventato contaminato, fantastico, noir, hai dovuto trovare dei tuoi luoghi, giusto? Certamente, è proprio così. Credo che sia forse l'unica regola che normalmente viene consigliata nei manuali di scrittura creativa, per dirsi voglia, che ho seguito per filo e per segno, cioè parla di quello che conosci. Io conosco casa mia, conosco le colline, i bricchi, conosco un po' del folklore, conosco un po' della storia. E poi comunque diciamoci la verità, il Piemonte ha delle peculiarità che ben si sposano con la narrativa fantastica. Non lo dico solo io, non sono certo il primo ad aver scritto fantastico in Piemonte. Parlavamo prima di un nostro grande decano che è Danilo Arona, lui ha creato Bassavilla, che fondamentalmente non è altro che Alessandria. Non siamo neanche lontani da Alessandria, quindi bene o male io credo che certe atmosfere, certo sentire il territorio abbia creato un milieu comune all'interno del quale non riusciamo a muoverci. Certo, c'era Lovecraft, aveva il suo New England, King aveva il suo Maine. Io ho le colline fra Langhe e Monferrato, a tiro senza senso, ma tanti anche altri. Ma hai dovuto inventare un luogo non esistente che sarà Valle Mormora? Sì, un po' come c'è Bassavilla che sarebbe Alessandria, sarà Valle Mormora, sarebbe Costigliole, che è il mio paese. Perché i castigliolesi lo sanno? I castigliolesi alcuni l'hanno capito, e in effetti forse ho più nemici di prima. Perché è un romanzo ispirato a una vicenda che ho vissuto in prima persona ed è stata la mia partecipazione alla campagna elettorale. Nel 2009 c'erano le amministrative, ero stato tirato dentro una lista con pretese progressiste piuttosto radicali per una mentalità di paese un pochettino chiusa, un pochettino diffidente, accidiosa per alcuni versi. E ho preso questo spunto per costruirci una vicenda, come ho detto, un pochettino alla Twin Peaks, perché effettivamente Twin Peaks aveva degli elementi che trovavo contigui e stimolanti per la costruzione di questo romanzo. La morte mormora, diciamolo, e comincia con un sindaco senza testa. Sì, un sindaco che si suicida e quando viene rinvenuto il suo corpo si scopre che la testa è stata sottratta. Sul quale poi si apre tutto un discorso di valenza simbolica, cioè il possesso della testa. Mi viene in mente un'intervista di Fratelli Coen, parlando di registi che amo. Certo. Avevano chiesto di citare un titolo che amavano particolarmente, avevano citato Voglio la testa di Garcia, che era un noir degli anni 70, piuttosto celebrato. E avevano chiesto perché, loro hanno risposto perché ovvio, nella testa ci sta l'anima. Hanno creato un paradigma meccanico perfetto, okay, dal loro punto praticamente ineccepibile. E quest'idea mi aveva lasciato il segno, devo dire. Sì, la testa come luogo dell'anima non appartiene soltanto alla nostra cultura o tante altre culture primitive, comunque vivevano con questa convinzione. Gli antichi Celti tagliavano la testa ai nemici, ne usavano i resti mummificati per dei picchetti con i quali contrassegnavano il loro territorio. E avendo un'indagine soprannaturale da raccontare, hai dovuto inventare un personaggio e anche un ufficio specifico per, esatto, le indagini. Questa forse è la parte più fumettistica, se vogliamo. Avrei Stefano Drago, che è il protagonista di queste storie, è un agente del DIP. DIP è una sigla che sta a significare Dipartimento Indagini Paranormali. Qualcuno mi ha chiesto perché me lo sono inventato, avrei potuto benissimo farne un commissario di polizia o un ufficiale dei carabinieri, potevo benissimo, però mi sarei trovato davanti a due grosse difficoltà. Uno, non so realmente come funziona l'indagine di un commissario di polizia. Frequentando un po' l'ambiente di giallisti ho scoperto che nella stragrande maggioranza dei casi, quando si parla e si legge dell'agire di un commissario nel giallo italiano, è sbagliato. Il commissario non fa così, molto sì. Spesso è il pubblico ministero che fa quello che nei libri fanno fare al commissario. Quindi si è costruita anche lì una sorta di mitologia o di convenzione, serie di, esatto, convenzioni narrative. È stata contaminata dall'indagine all'americana, dove si ha la figura del detective, che è un semplice agente che ha capacità di indagine sul campo, che da noi non c'è. È magistrato, pubblico ministero, che ha queste capacità, queste competenze, mm-hmm, e queste attribuzioni. E poi credo che comunque volessi un indagatore che avesse delle competenze sovrannaturali, nel senso in grado di affrontare quel tipo, certamente, di mistero. Una specie di X-File, se vogliamo continuare il nostro, esatto, gioco di citazioni e rimandi. L'ho fatto un po' alla mia maniera, qualcuno si è complimentato, mi ha fatto piacere perché mi hanno detto ma l'hai costruito, è completamente inventato, è anche poco credibile se andiamo a vedere, è un dipartimento di indagini paranormali in seno al Ministero degli Interni, però mi hanno detto però rende proprio l'idea di una struttura statale ed era proprio quello che volevo. Cioè io... È un bene o un male? È una situazione borderline, esatto, no? È complessa, permette aderenza alla realtà e nello stesso tempo permette anche qualche piccola stilettata. Certo, beh, chiaro. Perché anche lì il tuo indagatore Stefano Drago è protagonista di due romanzi, giusto? Due romanzi, tre, col terzo in probabile uscita, okay, per il 2015. Ok. Con un po' di fortuna. E in questo caso ti interessa con l'indagatore di tipo più atipico, soprannaturale, ti interessa più la componente fantastica, quanto invece col nuovo personaggio, il protagonista di Vino Rosso Sangue, hai un'indagine, esatto, più tradizionale. Esatto, sì, sono due filoni che ho creato, per potermi muovere con maggior libertà e l'altro su espressa richiesta del mercato editoriale. Cioè, obiettivamente si legge poco in Italia e si legge sempre meno, ma chi legge tantissimi gialli, legge tantissimi noir. In questa maniera ho creato una seconda serie di romanzi che saranno scevri dell'elemento soprannaturale e si muoveranno nell'ambiente più realistico della nostra realtà quotidiana. Infatti dico sempre che una differenza fondamentale è che le storie di Stefano Drago sono ispirate al folklore, le storie di Giorgio Martinengo, che è l'investigatore privato che ho creato appositamente per questa serie, sono ispirate dalla cronaca. Ok, beh, si può anche fare utilizzare l'uno e l'altro come fa Danilo Arona, immagino. Sì, non escludo mai a priori nulla, neanche un crossover. Ok. Che potrebbe anche essere un'operazione simpatica di citazione reciproca, come può capitare. Okay. Ti chiedo ancora due parole su questo nuovo romanzo di Stefano Drago, se vuoi dirci qualcosa, poi speriamo approdi, sì, in libreria. Sta cercando casa, come abbiamo detto, è attualmente in valutazione, quindi non escludo che a tempi medi brevi possa vedere la luce. Si intitolerà Il Settimino, è la terza indagine di Stefano Drago ed è un romanzo molto più complesso e per alcuni versi ambizioso, perché ha un sottotesto politico molto molto marcato. Credo che sia uno dei motivi per cui sta incontrando un pochettino di resistenza. Avevi già degli elementi politici nella campagna elettorale, sempre, di La Morte Mormora? No, in realtà ci sono sempre elementi politici nei miei libri, solo che a volte emergono di più, a volte emergono di meno, ma non ci rinuncio. Credo che sia importante comunque parlare di politica, indipendentemente dai periodi che stiamo attraversando e dai governi che stiamo subendo. Sì, vabbè, poi politica in senso lato, nel senso ideali, battaglie nel da combattere. Ideale, esatto. Quello è fondamentale. C'è uno scollamento pericoloso del cittadino medio della politica e io mi batto perché questo non avvenga. Ok. Fabrizio Borgio, è stato un piacere averti qui con noi. Piacere recitare. I tuoi romanzi si possono trovare per Fratelli Frilli Editore. Fratelli Frilli Editore o su tutte le piattaforme online, da Amazon a IBS, okay, chi volesse. Hai un blog, vuoi annunciare? Ho un blog che gestisco in maniera piuttosto discontinua, ma parlo di tutte le cose che mi piacciono. Si chiama Taccuino da altri mondi. Ok. È sulla piattaforma WordPress. Ho un blog gemello che si chiama Taccuino Giallo ed è destinato esclusivamente alle recensioni di romanzi gialli e noir, per non commistionare troppo, e i due account che abbiamo già citato prima. Ok. E parlando di account, presto sarà attivo anche, cioè è già attiva la pagina Facebook di Sono Solo Nuvolette, quindi se volete cominciare a passare a trovare, cliccare mi piace, contaci. Ci saranno presto gli aggiornamenti, metteremo anche una foto fatta qua, non siamo stati abbastanza veloci di farla nella pausa, quindi la faremo qui alla fine. E vi lasciamo, chiudiamo questa puntata di Sono Solo Nuvolette con un'altra canzone. Siamo stati in tema dark, però questa volta torniamo in Italia, anni 2000, After Hours. Io sono Fulvio Gatti, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre il martedì alle 15. Grazie a Filippo in regia. After Hours, quello che non c'è.